in primo piano. Buongiorno, buona domenica, sarà la seconda domenica dell'anno, quindi è l'ultima occasione che ho, diciamo, per farvi gli auguri per un buonissimo 2017. E a proposito di 2017, la prima pagina del Sole 24 Ore apre sulle 1000 scadenze del 2017, parliamo di scadenze fiscali, pensate, solo a gennaio ce ne saranno 102. Parte di questi 102 adempimenti sono ereditati, a dire il vero, dal 2016. Trovate l'elenco completo, che vederlo così fa abbastanza paura, a pagina 3 del Sole 24 Ore. Vi segnalo anche, vi ricordo, è segnalato anche sulla prima pagina, che poi mercoledì in edicola ci sarà la guida del Sole 24 Ore alla un'altra grande novità del 2017 che riguarda molti di noi, la pensione anticipata, quindi le regole per gli assegni, la pensione anticipata, il cumulo gratuito, quindi non solo la pensione anticipata in realtà, ma le nuove forme di pensioni. Il Corriere della Sera apre sul gelo, perché benché qualcuno come al solito dica è inverno, fa freddo, sappiamo che in realtà questa è un'ondata di freddo eccezionale. Erano più di 35 anni che non c'erano certe temperature in questo periodo, soprattutto al centro-sud. E quindi il titolo: Italia al gelo, blocchi e vittime. Un approfondimento anche sul fatto che oggi in 38 province bisognava votare, perché le province non sono state abolite, visto che abbiamo una delle conseguenze del no alla riforma costituzionale sancito dal referendum del 4 dicembre scorso. E però tra l'altro in alcune di queste votazioni sono state rinviate, per esempio a Chieti proprio per il maltempo. In ogni caso, ora ci racconta Enrico Marro, non è solo questione di votare ma anche poi di chiedere dei soldi per funzionare, quindi le province al voto battono cassa, ora 1 miliardo. La Repubblica, che come da quando Tommaso Cerno è direttore dell'Espresso, cioè da agosto, è in edicola insieme all'Espresso, titola in realtà su una inchiesta che poi trovate alle pagine 2 e 3, molto dal Mani sul volante, che si intitola Inabilità al lavoro e falsi permessi, l'Italia dei furbetti. Tutti i casi eclatanti, appunto, di come in Italia, non soltanto a Palermo, non soltanto in Sicilia, ma in tutta Italia, come mostra la mappa che trovate a pagina 3, ci siano appunto i tanti furbetti che cercano di sfruttare le norme in qualche modo, o aggirarle sostanzialmente per lavorare di meno. Fotonotizia però è dedicata all'emergenza gelo, in particolare abbiamo sentito al centro-sud e anche alle misure che un po' tutte le città, a partire da Roma e proprio dalla Città del Vaticano, si stanno prendendo per evitare che muoiano le persone che vivono per strada, i clochard. L'Espresso, la copertina dell'Espresso è un divertente disegno, una pizza che piange, non una pizza che ride. E il titolo dell'inchiesta poi che trovate all'interno è di Marco da Milano, vice direttore dell'Espresso: Bomba Italia, terrorismo, immigrati, periferie e allarme democratico. Minitti, ministro dell'Interno, racconta il suo piano e la svolta culturale a sinistra sulla sicurezza. La Stampa invece apre su un'intervista che trovate poi alle pagine 2 e 3 di Andrea Tornielli a Papa Francesco, e il virgolettato è: ho capito che dovevo viaggiare dopo la missione a Lampedusa. Papa Francesco si concentra soprattutto, comunque viene interrogato per così dire da Andrea Tornielli, soprattutto sulle sue molte missioni recenti all'estero. Perché ho saltato l'Europa, preferisco vedere chi ha bisogno di aiuto. Papa Francesco ammette, anche l'aveva già detto anche in passato: non mi piaceva spostarmi, però ora so che devo andare. E vi segnalo anche la traduzione di parte dell'ultimo discorso che Michelle Obama ha fatto prima di lasciare definitivamente il posto di First Lady a Melania Trump, e si intitola Cari ragazzi, il futuro sarà vostro. Forse qualcuno ne ha già sentito degli stralci durante qualche telegiornale. È sicuramente un discorso molto bello, fatto, rivolto soprattutto appunto alle giovani generazioni. La fotonotizia però è dedicata a quei dati molto incoraggianti che sono stati diffusi in questi giorni, ne avete sentito parlare anche a Radio 24 sull'aumento dei visitatori nei musei italiani, e in particolare la Stampa sceglie di fotografare la Reggia di Venaria, che ha veramente un record di presenze come crescita rispetto al 2015, cioè più 71%. migranti, il piano per la Libia, invece il titolo del Messaggero, perché infatti domani parte la missione, abbiamo visto, di Marco Minniti, ministro dell'Interno, che fin dal suo insediamento ha dato una svolta alle politiche sull'immigrazione, facendo anche subito dei viaggi all'estero per cercare di tessere questa tela complicatissima degli accordi con i paesi da cui gli immigrati provengono e in cui si punta a rimpatriarli se non hanno diritto di asilo. E quindi parte domani questa missione di Minniti in Libia, finanziamenti in cambio dello stop al flusso dei profughi. E ieri è arrivato anche l'appoggio di Bruxelles alla linea italiana sulle espulsioni e tra l'altro giovedì a Roma, quando Minniti tornerà poi in Italia, ci sarà un vertice con Avramopoulos, che è il commissario europeo all'immigrazione. Vi segnalo sempre sulla questione Libia, che è complicatissima anche perché sapete che la Libia è divisa in due anche dal punto di vista del governo, c'è chi riconosce un governo, chi ne riconosce un altro, però è molto difficile anche trovare degli interlocutori in Libia in questo momento. E quindi Romano Prodi, che ogni domenica interviene sul Messaggero, parla proprio di questo: solo la pace potrà garantire i nuovi accordi, quindi qualsiasi saranno gli accordi che Minniti riuscirà a firmare, poi ci vuole un processo di pace vero in una Libia dilaniata dalla guerra civile e quella che Prodi definisce la guerra Tobruk Tripoli, appunto le due autoproclamatesi capitali della Libia post Gheddafi. L'articolo poi continua a pagina 20. Vi leggo l'ultimissima parte: lo sfinimento per una tragedia senza fine, la consapevolezza che nessuno ne uscirà vincitore, rendono finalmente realistico il doveroso e indispensabile ruolo di potente facilitatore da parte dell'Unione Europea e in particolar modo dell'Italia. Dobbiamo infatti essere finalmente convinti che il problema dei migranti non può essere affrontato quando essi sono già giunti nel nostro paese, perché a questo punto ogni soddisfacente soluzione è impossibile. Il Fatto Quotidiano, titolo diverso, un fotomontaggio con una specie di faccia a faccia virtuale tra Maria Elena Boschi e Paolo Gentiloni, quindi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che secondo Il Fatto è stato imposto da Renzi, e il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il titolo, il retroscena del Fatto Quotidiano è: Gentiloni e la Boschi sono già ai ferri corti. Fuori i nomi dei bidonisti, invece il titolo di Libero, e il riferimento, questi sarebbero i bidonisti, sarebbero quelli che hanno ricevuto dei soldi dal Monte dei Paschi, che Libero definisce i responsabili dello scandalo Monte Paschi, e che non li hanno restituiti. Il 70% delle sofferenze che hanno mandato KO alla banca è legato a prestiti mai restituiti a ricchi imprenditori, questo scrive Libero. Vogliamo sapere chi sono, visto che il governo del PD verserà 8 miliardi di soldi pubblici per salvare MPS. In realtà sulla quantità di soldi, che comunque è un'enormità, che siano 5, 6, 7, 8, 8,8, e su quanto a testa ci costerà, si ipotizza 108 euro per ogni contribuente, ci sono appunto varie interpretazioni, però è vero che da molte parti si invoca questa pubblicazione della lista dei creditori, soprattutto di quelli eccellenti. A proposito di Papa Francesco, completamente diversa l'apertura di Libero, la fotonotizia di Libero dedicata però a Papa Francesco, con un lungo articolo di Renato Farina che poi trovate a pagina 7, che fa riferimento a un sondaggio, secondo il quale, un sondaggio di Ipsos, secondo il quale l'82% si fida di Papa Bergoglio, e quindi, secondo l'interpretazione di Farina, gli italiani vogliono il Papa Re. Sull'Avvenire invece un titolo ancora diverso e molto interessante, perché fa riferimento ai risultati di una ricerca di una commissione parlamentare di cui ho sentito parlare pochissimo. Il titolo è: incrocio armi rifiuti, le camere stanno indagando infatti, e da queste carte emerge il giallo delle scorie radioattive inviate a Beirut con 131 navi e poi tornate in Italia. La commissione parlamentare certifica quindi che ci siano questi traffici in corso e che molte delle nuove mete siano il Nord Africa. La fotonotizia però è dedicata al gelo e alle cosiddette vittime invisibili. Tra l'altro ricordiamo che molte delle zone terremotate, dove ci sono ancora tende, container, sono tra le più colpite, perché si trovano nelle Marche e nel Reatino. Molte delle zone, zone colpite dal terremoto adesso sono colpite anche dall'ondata di maltempo. Il manifesto Relazioni pericolose, il riferimento è a Trump e Putin. Tra l'altro il manifesto ha trovato un murales a Vilnius in Lituania dove Trump bacia Putin, è un disegno. Il manifesto è l'unico però a mettere in prima pagina l'ennesima strage ad Azaz, che è una città vicino alla Turchia in Siria, dove c'è stato un attentato, un camion bomba che ha ucciso 63 persone alla faccia della tregua siglata la settimana scorsa. Ultimo titolo che vi segnalo prima della pausa per il traffico, e perdonate se sto andando un po' in fretta, ma oggi abbiamo un quarto d'ora in meno del solito, il giornale: il nuovo piano per difenderci dal terrorismo. Il riferimento è soprattutto alla intervista data proprio ieri al giornale da Franco Gabrielli, il capo della polizia, che ha detto che il rischio in Italia di attacchi terroristici è molto concreto, anzi letteralmente che l'Italia dovrà pagare il suo prezzo al terrorismo. Ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Rieccoci, ancora un paio di prime pagine, poi passiamo ai supplementi culturali, anche perché sono due domeniche che i giornali non erano in edicola, quindi sentivamo anche la mancanza naturalmente del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Il giornale, quindi vi dicevo, il titolo sul terrorismo, e poi in prima pagina, così come Libero, una fotonotizia che viene dal Brasile, poi su altri giornali lo trovate alle pagine interne, una bella storia di un cavallo che ha partecipato al funerale del suo padrone. Nitriti, lacrime, una carezza, così piange un cavallo in lutto. Sicuramente al giornale Libero c'è una grandissima attenzione per queste storie legate al mondo degli animali. Ci devono essere un gruppetto di animalisti super convinti, e naturalmente con dei direttori che appoggiano queste scelte. Ultimissima segnalazione dall'Unità: in soccorso dei populisti. Qui il riferimento è al fatto che c'è la polemica tra Putin e Trump, o meglio tra gli Stati, tra Putin e Obama più che tra Putin e Trump. Ieri c'è stato questo rapporto della CIA sulle manovre per favorire Trump, e adesso il timore si sposta sulle elezioni in Europa e sull'allarme, secondo l'Unità, che nei prossimi appuntamenti elettorali Francia, Olanda e Germania ci sarà appunto un aumento dei voti per quelli che l'Unità definisce i partiti populisti. Vi segnalo la polemica con la CGIL, perché il direttore dell'Unità, Sergio Staino, ieri pubblicato un editoriale in cui diceva: siete capaci di dire solo no alla CGIL, in particolare di Susanna Camusso. Ora la CGIL risponde, ma nel frattempo c'è un sondaggio che trovate a pagina 3 dell'Unità mostra come ci sia un vero e proprio crollo nella fiducia dei sindacati, che sarebbe al 18%, la crisi della rappresentanza. Enzo Risso, direttore scientifico dell'Istituto di Sondaggi SVG, spiega: è l'emblema della fine di un'epoca e il simbolo della difficoltà del sistema democratico. Ma come vi dicevo, passiamo ai supplementi culturali, cominciando come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Aruspici. È sorprendente che un aruspice possa vedere un altro aruspice senza mettersi a ridere. Hai un bel dire che ormai a dominare la scienza, che simile a un vento ha spazzato via le nubi della magia, del mito e della superstizione, così da rendere cristallino il cielo della ragione. E invece, ecco ancora in abbondanza sulle reti televisive, ma persino in certi angoli delle città, affacciarsi imprudentemente maghi, cartomanti, chiromanti, fattucchieri e veggenti vari. Anche i giornali più paludati non hanno esitato, e non si sono vergognati, a interpellare astrologi per emettere oroscopi riguardo al nuovo anno. A sbeffeggiare seriamente queste varie cialtronerie già ci pensava Cicerone con la frase che abbiamo estratto dalla sua opera La natura degli dèi, prendendo in giro gli aruspici che emettevano vaticini commerciali. Allo stesso modo, i profeti biblici fustigavano quegli pseudo profeti che pronunciavano oracoli positivi solo se si cacciava loro in bocca qualcosa da rosicchiare. Contro queste deviazioni dello spirito non basta l'ironia, perché spesso si registrano degenerazioni pericolose, soprattutto nel campo della superstizione religiosa. Aveva ragione il filosofo David Hume, ricordandoci che gli errori della filosofia sono ridicoli, quelli della religione sono sempre pericolosi. Tra l'altro, a proposito di questa difficoltà di fare le previsioni, vi segnalo il dibattito che si è innescato a Londra da parte di economisti che, ammettendo i loro errori nelle previsioni, hanno detto: ormai stiamo diventando come i meteorologici, non si sono ancora paragonati agli astrologi, ma poco ci manca, nel senso di un mea culpa sulla difficoltà di fare previsioni, ma forse anche sulla difficoltà di ammettere quanto è difficile fare queste previsioni e quindi con che probabilità queste previsioni potrebbero essere sbagliate. Ma la copertina vera e propria è dedicata a un anniversario importante. Il titolo dell'articolo è Rivoluzionario per caso. 500 anni fa Lutero affiggeva la tesi a Wittenberg, dove appunto poi si iniziò la rivoluzione luterana. Non voleva provocare uno scisma, che poi invece ci fu, ma solo denunciare l'immoralità della Chiesa. E il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, prende spunto da una lettera che ha ricevuto alle 23:43 del giorno di Natale da una ragazza di 19 anni che gli spiega la sua passione per Milano, per la cultura del passato, per simboli come potrebbero essere le librerie storiche di Milano, e in particolare cita l'opera di Giuseppe Marotta, A Milano non fa freddo, e il direttore prende spunto da questa lettera per raccontare insomma le sue sensazioni, la Milano di Marotta e la passione di Sara, e fa effetto naturalmente appunto che una ragazza di 19 anni dica che ha una passione nei confronti di un universo passato. E quindi conclude Roberto Napoletano: senza memoria non c'è futuro, e per avere la prima e costruire il secondo bisogna conoscere in profondità la nostra storia, capire chi siamo e da dove veniamo, intraprendere un cammino condiviso di lungo corso, fuori da populismi o giacobinismi. Il futuro si costruisce con la solidità della memoria e l'intelligenza di aggirare le trappole di un presente litigioso e inconcludente. Vi segnalo sempre dal Sole 24 Ore, abbiamo veramente poco tempo e volevo farvi anche qualche altra segnalazione dagli altri supplementi, a pagina 27 un interessantissimo articolo di Pietro Petrini sugli aggiornamenti sulla ricerca scientifica sulla una delle patologie più diffuse ma anche ancora meno comprese, che è quella della depressione. È una patologia per nulla diversa da quelle che affliggono il corpo, sono necessarie una diagnosi precoce e trattamenti farmacologici idonei. Secondo gli ultimi studi questa patologia avrebbe una base appunto organica: il cervello perde l'arborizzazione sinaptica, l'ippocampo si atrofizza e a volte si arriva a comportamenti autolesivi. E poi finalmente torna il supplemento per i lettori più piccoli, che è arrivato al numero 11, si chiama C'è qualcuno che sa leggere, e come sempre molte segnalazioni di libri, spunti e poi una bellissima poesia di Roberto Piumini, un fumetto come sempre, e insomma lo trovate nel domenicale. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista, questa settimana è Paolo Icaro con una delle sue fotografie. E poi vi segnalo dall'interno una lunga recensione di Telmo Pievani, che tra l'altro gli ascoltatori conoscono bene, che insieme a Federico Taddia collabora spessissimo, anche una trasmissione sulle parole del 2017. La sua recensione è al libro di Michael Tomasello, Storia naturale della morale umana, appena uscito per Raffaello Cortina. Il titolo è Cooperazione immorale. L'aiuto reciproco non coincide con l'etica, anche i mafiosi sono solidali tra loro. Michael Tomasello indaga le origini evoluzionistiche dell'altruismo, ma non spiega però perché nella nostra specie abbiano spesso prevalso sistemi di valori basati sul dominio del più forte. Un'altra interessante prospettiva su come si è evoluto l'uomo, Edoardo Boncinelli prende spunto da alcuni libri. Il titolo del suo articolo è L'uomo era violentissimo, ma oggi meno. È noto da tempo che le scimmie antropomorfe sono più aggressive dei grandi predatori. Ora sappiamo che all'origine della nostra evoluzione culturale noi eravamo 6 volte più letali di un mammifero medio. Poi tutto è cambiato. Ecco perché invito tutti a leggere questo articolo di Boncinelli. Robinson, il supplemento culturale della Repubblica, è arrivato al numero 6. La copertina: buoni maestri inventano metodi alternativi per i ragazzi, si ribellano alla media aritmetica del voto, nelle scuole ci sono docenti appassionati e soli, scommettiamo su di loro. E poi ultimissima segnalazione, sempre da Robinson, un testo di Dave Eggers, il grande scrittore americano, che tra l'altro tra un mese pubblicherà il suo nuovo romanzo Eroi della frontiera. Il titolo del pezzo si chiama L'uomo che torna indietro, dove racconta le persone che ha incontrato a Gibuti, persone che stavano yemeniti in fuga dalla guerra e che stanno appunto cercando di trovare una soluzione o per lasciare Gibuti per sempre o comunque per tornare nel loro paese, ma sono in qualche modo disperati. Era l'ultima segnalazione per oggi, mi dispiace perché davvero oggi i giornali sono ricchissimi, comprateli, sfogliate i supplementi culturali perché ci sono tantissimi stimoli e poi appunto come vi dicevo erano anche 2 settimane che non avevamo i giornali alla domenica. Tra l'altro se volete anche sapere quali sono stati i libri più venduti del 2016, la classifica la trovate a pagina 17 del giornale. Il più venduto in assoluto, Harry Potter, la maledizione dell'erede, poi di Andrea Camilleri, l'altro capo del filo, al terzo posto La ragazza del treno di Paula Hawkins. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora buona domenica da Giulia Crivelli, un grazie a Paolo Coleoni in regia, un grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e auguri per un serenissimo 2017.